immerso una strada nuda. Se vedi i lampioni che spuntano dalla nebbia, vedo una prostituta seduta alla fermata. La parla troia viene usata come infamata, andrebbe rimpiazzata con escort, letterina, velina che spompina. La classe corrotta e invecchiata, ogni classe in lotte commercializzate. L'aborto dell'emancipazione femminile che vomita bile sulle sue foto, ricordo, mentre una ragazzina fa nuove foto soft porno, cosciente del potere del basso ventre, ma non di quello della mente che la vanità ha posizionato su off. Torno a guardarmi intorno, sono nella piazza digitale, ove la ragione si fa sempre ciotta, troppa fotta per la gnocca che se tocca trucca le tocca Photoshop, con seni che scoppia dalla coppa. Non si fotte troppo scottex, il water si intoppa tra bocche, riempie il fossato della solitudine sulla quale ogni cittadino si arrocca. Rocambolesco, esco da questo paese, mi lavo gli occhi in un uscello dove galleggiano altri fazzoletti, prendimi mucche e lacrime spese per un amore senza lieto fine. Le labbra che si imbarazza, ma non sa che l'opposto del sublime non è il suo pianto, ma lo sbocco che ho incontrato prima in piazza. Il cuore non si comanda, ma ho una domanda. Il cuore come organo invecchia spontaneamente, ma il cuore come lato emotivo della mente è la nostra parte più santa. Se sì, allora la prova che la vera religione è ingenua, la ragione è attenua, la passione e la fede non è concezione che non ha difesa strenua. Basti pensare al monoteismo come monogamia divina, la divinità ebrea era gelosa, in fuori di me non avrai altra vagina. La gelosia è paura di affrontare la solitudine, non tanto in senso fisico come distanza spaziale, ma in senso psicologico come coscienza di non potersi fidare. Sfidare la morale è una sfida, la forza di gravità come per gli alpinisti. La mia mente mette in piedi dette in cui sono sole, divengono piccole tristi le definizioni dell'uomo viste in questa prospettiva, che non ha un tetto ma sono nuvole come loro, una progressiva evoluzione di forma mai definitiva. La ragione dà inizio e molti vizi, attuando la repressione di ogni pulsione, ma non si può causare una lezione con la sola forza della ragione. Solo in questo senso al cazzo non si comanda, abbandono queste riflessioni che mi hanno distratto e fatto abbandonare anche la montagna e mi trovo in una landa antropogenica come Luneburgo. Territori mutati dopo interventi umani che ogni giorno attirano turisti in quanto scenari esteticamente particolari, possono riforestarsi naturalmente e essere distrutti dall'espansione della città adiacente, coerentemente con la stratificazione indifferente dei problemi del nostro presente. Ma il presente è un presente. No, è per me, dai, non era necessario. Grazie. Ora lo apro, chissà cosa. Ma è una permanenza nell'attimo, un'esistenza. Quindi non sono più solo un personaggio inventato da Zona MC. Zona MC, a.k.a. Vincent Vega. Zona MC, a.k.a. Vincent Vega. Reiterazione dei suoni del proprio nome, a.k.a. sindrome di Tourette, a.k.a. rap. Délire cosmique.